La Rete 26 febbraio è un movimento spontaneo nato praticamente pochi giorni dopo la tragedia di Cutro ed è nato dagli enti, le associazioni ma anche i cittadini che si sono da subito mobilitati per dare sostegno alle vittime del naufragio e ai familiari. Ci siamo messi subito a disposizione anche delle autorità per fornire assistenza psicologica, mediazione culturale ma anche per colmare quelli che purtroppo erano alcuni vuoti nel sistema di accoglienza e supporto. Quindi i primi giorni ci siamo fatti carico dell'accoglienza dei familiari che provenivano da ogni parte d'Europa e del mondo, fornendo loro appunto alloggio, vitto, ma anche beni di prima necessità. Alcuni sono partiti in tutta fretta nella speranza purtroppo di poter riabbracciare i cari, ma non è stato quasi mai così e quindi a volte mancava un telefono, una SIM, un cambio di vestiti. Dopo questi primi giorni però ci siamo resi conto che l'assistenza, il dolore, il piangere insieme, il fornire una spalla di supporto non era sufficiente, perché bisognava dire basta. Crotone deve essere la goccia che fa traboccare il vaso, mai più morti in mare, mai più assistere a simili tragedie, ma mai più essere costretti come operatori ad accompagnare delle mamme che devono riconoscere il corpo dei loro bambini. E quindi ci siamo mobilitati creando questa rete. Da subito siamo stati sommersi da adesione e da sostegno da ogni parte d'Italia. Siamo partiti di pomeriggio nella sede della mia associazione Sabir con qualche realtà del territorio, delle città limitrofe. Il giorno dopo eravamo già più di 200 associazioni e cittadini singoli che hanno aderito da tutta Italia e da tutta Europa, perché ci stanno arrivando anche adesioni da fuori Italia, e al momento proprio stamattina siamo più di 300 che stiamo creando insieme questa rete, che ha già organizzato sabato scorso dei sit-in presso le prefetture di Crotone e di tutta Italia, e sabato 11 marzo si incamminerà insieme per una marcia a Crotone, una manifestazione nazionale per dire basta. Per dire basta e per chiedere anche verità e giustizia. Per chiedere verità e giustizia, perché simili cose non devono più succedere in mare e non si può continuare a criminalizzare i migranti, non si può continuare a ripetere che le morti in mare si prevengono prevenendo le partenze. Le morti in mare si prevengono garantendo vie legali e sicure di accesso, garantendo il soccorso in mare. Queste sono le uniche due risposte possibili, e soprattutto la si deve finire di criminalizzare le vittime, di criminalizzare i superstiti. Non si può accusare una mamma di responsabilità o di essere colpevole della morte dei propri figli. I superstiti, visto che siete in contatto con loro, anche alle dichiarazioni di Piantedosi e al dibattito che si è sviluppato in Italia, come reagiscono? I superstiti in realtà stanno reagendo in un duplice modo. Da una parte ringraziano noi italiani, noi singoli cittadini, perché ci stanno vedendo al loro fianco 24 ore su 24. Si stupiscono anche di questa grande solidarietà, di questa catena che si è creata intorno a loro di sostegno, e nello stesso tempo però fanno un distinguo con il governo che non ha salvato, che non li ha salvati, che non ha salvato i loro cari e che al momento non fornisce risposte chiare e precise a due istanze che loro presentano: favorire il rimpatrio delle salme e garantire il ricongiungimento dei vivi. A 7 giorni dal disastro abbiamo combattuto come enti del terzo settore affinché fossero date risposte chiare su queste due problematiche. Stiamo riuscendo a dipanare la matassa nelle ultime ore, ma ancora niente definitivo, niente sicuro, ma sono istanze a cui bisogna dare una risposta immediata. Qualcosa si è mosso dopo la visita del presidente Mattarella, che ha parlato con i familiari e si è detto disponibile personalmente a seguire la vicenda. Quindi come si svolgerà la manifestazione di sabato prossimo? Allora, sabato prossimo ci si incamminerà per le strade di Crotone, arriveranno, si stanno organizzando appunto delegazioni da ogni parte d'Italia. Sarà una marcia pacifica e silenziosa che si concluderà poi con una riflessione su quello che sta avvenendo e al grido di basta, mai più morti nel Mediterraneo.